Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, mi spiega perché l'Italia è l'unico paese in cui le rendite finanziarie sono tassate al 12,50%? Paolo. Gentile Paolo, la logica della sua domanda è molto chiara. Perché, invece di incidere con la manovra sugli stipendi e sulle pensioni, non si aumentano le tasse sulle rendite finanziarie? La risposta, mi scusi, è abbastanza banale, perché servirebbe a poco. Vede, la tassa sulle rendite finanziarie è praticamente una partita di giro. Se lo Stato aumentasse l'imposta, per mantenere invariato il rendimento netto, che è quello che interessa ai risparmiatori, dovrebbe alzare i tassi di interesse. Dovrebbe in pratica spendere di più in interessi per incassare di più in tasse. Senza dimenticare che un livello di imposta così basso è soprattutto un incentivo, anche se solo psicologico, alla sottoscrizione. E lo Stato italiano, con il suo grande debito pubblico, ha bisogno come l'ossigeno di collocare i propri titoli. Dove questo effetto non c'è, ed è il caso dei conti correnti, la tassa infatti è più alta e si colloca al 27%. La politica fiscale si basa sempre su un difficile e delicato equilibrio. Le scelte dei cittadini, dei consumatori, dei risparmiatori si basano anche sul livello di tassazione. Per questo non è un paradosso il fatto che in taluni casi, aumentando le aliquote, possa diminuire il gettito. Viva la Corte Costituzionale! Facciamo appello alla Corte Costituzionale per qualsiasi problema. Per esempio, il furto senza mezzi termini che sta perpetrando sulle pensioni. Mascherano l'innalzamento dell'età pensionabile per quei disperati, pubblici e privati, che lavorano da 40 anni. Dicono mezze verità nelle interviste sui mezzi di informazione. Mentono e smentiscono. Vorrebbero rubare i dipendenti che hanno dato il sangue lavorando per 40 anni, costringendoli a lavorare un altro anno e rubando loro tutti i contributi che non verrebbero acquisiti ai fini pensionistici. Trovo che tutto questo sia incostituzionale. Emiliana. I magistrati fanno notare che il blocco temporaneo degli stipendi penalizzerebbe i giovani appena entrati nella carriera. Questo è vero, così come è vero per i giovani ricercatori universitari. Ma visto che gli stipendi dei magistrati sono fra i più alti fra quelli della pubblica amministrazione, perché i più anziani non rinunciano ad una quota del loro stipendio a favore di quello dei più giovani? In questo modo sarebbero sicuri che i loro sacrifici, molto relativi, sarebbero utili ai loro colleghi e all'intera collettività. Ma dubito che questa proposta sarà considerata. La vera tragedia italiana è l'egoismo degli anziani, ci metto anch'io, verso le giovani generazioni. È vero che ci sono diritti acquisiti, ma non è paradossale che un genitore vada in pensione con un assegno che è del 150% superiore allo stipendio del figlio che fa lo stesso mestiere? Per quanto tempo si potrà sostenere una situazione simile? Laura. Tra i tanti argomenti assurdi che i media ci propongono in questo periodo di ristrettezze, c'è quello delle retribuzioni da corrispondere agli insegnanti delle commissioni d'esame. Questi insegnanti sono pagati tutto l'anno, anche nei mesi estivi, durante i quali normalmente non lavorano. Davvero non si capisce perché debbano ricevere altri soldi per svolgere un lavoro già pagato. Al posto dei soldi, si potrebbe premiare il commissario con gettoni di presenza. In questo modo ci risparmieremmo le lamentele di questi giorni. Non se ne può veramente più dei privilegi dei dipendenti della pubblica amministrazione. Elena. Mamma mia, ci fosse qualcosa che vada bene. A che serve tutto questo pessimismo? E poi questo lamento continuo dei comuni, delle province, dei politici. Ma chi li deve fare i sacrifici? Io sono invalida al 90%, ma ho dovuto fare una causa civile per ottenere un assegno di invalidità ordinaria. Ci sono i falsi invalidi, ma la gente malata davvero è costretta a fare causa e con il 90% c'è il limite di reddito di 4.000 euro. Risparmiamo un po' tutti e poi ci vorrebbe un po' di ottimismo, che è il sale della vita. E soprattutto, qualcuno dica a Tremonti che se vuole battere l'evasione, deve dare la possibilità di detrarre tutte le spese. Saveria. Ho letto che la manovra andrà ad intaccare anche le pensioni di invalidità. Questo mi va benissimo, soprattutto se si tratta di pensioni elargite a falsi invalidi. Quello che invece contesto è la decisione di portare la percentuale di riconoscimento di invalidità dal 74% all'85%. Io sono una donna che purtroppo si è ammalata di cancro al seno e per avere il riconoscimento di invalidità in questi casi occorre il 75%, che nel mio caso dà diritto ad una pensione mensile di 200 euro. Ma soprattutto dà diritto all'esenzione totale del ticket per tutte le prestazioni di controllo. Che cosa hanno intenzione di fare? Toglierci anche questo? Io non sono contro Tremonti e la manovra, ma ogni volta che i politici ad alto livello mettono mano a qualche riforma, mi chiedo sempre se siano al corrente di cosa effettivamente andranno a toccare. Più di una volta mi sono resa conto che non erano consapevoli del tutto delle miriadi di rivoli in cui la loro azione si sarebbe incanalata. Lettera firmata. Finalmente si stanno mettendo le basi concrete per una crescita sostenuta del PIL in Eurolandia. I meccanismi speculativi in gioco che hanno smascherato la debolezza del sistema e sancito la debolezza dell'euro quale moneta fittizia stanno lavorando nella giusta direzione a scapito di ciò che stanno facendo le autorità e gli stati con manovre correttive inutili che hanno il solo scopo di sperperare risorse da dare in pasto all'altare della speculazione mondiale che ringrazia e passa alla cassa. Un'ulteriore svalutazione del 20% dell'euro fin sotto la parità con il dollaro, in una fase di economia mondiale non ancora in ripresa, ovvero con i costi dei prodotti energetici e delle materie prime ancora bassi, darà lo slancio per la crescita impetuosa di Eurolandia e soprattutto di Germania e Italia. Ci saranno acquisizioni di aziende da parte di capitali stranieri e fioccheranno le commesse. Per l'estate ci sarà un boom del turismo. Riassorbiremo la disoccupazione in breve e il PIL, nel giro di pochi mesi, comincerà a volare. Solo quando saranno fatte le riforme strutturali a livello europeo, ovvero la livellazione del costo del lavoro e delle condizioni di lavoro, l'armonizzazione fiscale e la costituzione di un vero Stato federale sul modello americano, potremo riparlare di euro forte. L'Europa, così come oggi, è finita, morta. È solo l'espressione della finanza e delle banche centrali e va riformata in senso federale. Alessandro. Gentile direttore, voglio sottoporle una provocazione. Non le sembra che mafia, camorra e 'ndrangheta da sempre, loro malgrado, e di certo non per missione virtuosa, coprano una sorta di vuoto che viene generato dalla classe politica? In fondo, raccolgono ricchezza e una parte di essa va a sfamare tanti disperati, tanti che un lavoro onesto non hanno occasione di ottenerlo. Qui il doppio fallimento di troppi governanti. Non solo non valorizzano la scuola togliendo risorse e professionalità, ma facendo finta di litigare, perdono di vista le cause dell'illegalità, perché di fatto stentano a promuovere serie politiche di occupazione e investimento, gettando concime vitale per il malaffare. Istruzione e lavoro come medicine di prevenzione verso le metastasi mafiose e quale indice di generosità della gente di questo tempo verso le generazioni future. Sofia. Direttore, mi pongo una domanda. Perché nelle campagne della zona Rimini e Cesena lavorano moltissimi extracomunitari? Qualche datore di lavoro ne ha anche 30 o 40. Ma la disoccupazione dov'è? Fra Riccione e Ravenna ci sarebbe lavoro come minimo per 2-3 mila giovani. Qui invece lavorano tutti in nero. Va bene che in questo modo i pensionati raddoppiano la pensione, ma i signori albergatori potrebbero almeno dare una mano al bilancio. I controlli? Chi li fa? Nessuno. E se vengono fatti, i guardiani notturni lo sanno in anticipo. Vittorio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.